comincia il professor Utiero, che parlerà sul tema tra nomos e telos, la teologicità dell'etica nel pensiero di Antonio Rosmini. Il professor Utiero si è formato in Italia, a Napoli e a Roma, attualmente è professore ordinario di teologia morale a Münster. Inoltre è studioso di etica e di etica applicata ai problemi particolarmente gravi dei nostri anni, dei nostri tempi, legati all'inizio e alla conclusione della vita umana. È membro di numerose accademie italiane e straniere rivolte allo studio di questi problemi. Tra i suoi numerosi studi, molti sono contributi in riviste italiane e straniere, io qui ricordo La preparazione alla morte di Erasmo da Rotterdam, 1984, L'etica tra quotidiano e remoto, 1985, Temi di bioetica, 1990. Inoltre è coautore di un trattato di etica teologica, 1981, seconda edizione recente del 92, e di un corso di teologia, ed è autore del corso di teologia morale 83-92. Fuori. Tra i suoi contributi specifici allo studio di Rosmini citerò quello che credo sia il primo volume, Amore e coniugalità, antropologia e teologia del matrimonio in Antonio Rosmini, del 1980. Inoltre, Rosmini e l'etica del cuore, nel volume che ieri abbiamo sentito presentare, dove il contributo quindi era una relazione del 93 al convegno di cui sappiamo. Allora do la parola al professor Utiero, ringraziandolo. Di 45-50 minuti. Oggi abbiamo due relazioni, non ci sarà intervallo e quindi subito passeremo al dibattito e poi alla conclusione del professor Beschini. Sono passati ormai più di tre decenni da quando il Concilio Vaticano II mise a tema la necessità di un rinnovamento radicale delle discipline teologiche, additando anche per la teologia morale le coordinate lungo le quali esso doveva essere praticato. Nuove aree di autocomprensione della sua identità e nuovi compiti venivano attribuiti alla riflessione teologica anche in campo etico. Si trattava soprattutto di ripensarne natura e strutture, per vincere quella sorta di anemia in cui essa si era andata a confinare quando aveva privilegiato il rapporto con il sapere giuridico, in particolare giuridico canonico, e aveva trasformato così il discorso etico in una maglia di prescrizioni legalistiche gestita dalla acribia dei maestri della casistica o tutt'al più presidiata dai raffinati ragionamenti dei jus naturalisti neoscolastici di inizio secolo. Il monito del Concilio, Optatum Totius numero 16, suonava inequivocabile. Andava posta particolare attenzione al perfezionamento della teologia morale perché risultasse chiaro il suo ancoraggio teologico e il suo carattere scientifico. Prendeva voce così il lavorio condotto negli anni precedenti al Concilio, teologi avveduti, spesso però ingiustamente sospettati e discreditati, la cui intenzione era quella di portare avanti i lavori di restauro nell'edificio della teologia morale, così dice Franz Böckle nella prefazione alla sua morale fondamentale, e di consentire agli uomini del nostro tempo di trovare nella Chiesa una casa abitabile dal punto di vista etico, così un altro di questi teologi avveduti, Alfons Auwart. La crisi della cifra teologica del pensiero etico di quei decenni o secoli precedenti il Concilio sta in una non debole analogia con la situazione con cui dovette misurarsi il giovane Rosmini fin dal tempo della sua formazione teologica all'Università di Padova. Il giudizio che egli dà dello scenario teologico del suo tempo traspare nella valutazione dei testi teologici prodotti, cioè dei manuali, messi nelle mani degli studenti. Con insolita intemperanza di linguaggio, Rosmini non esita a classificarli in tutta la loro negatività. In una pagina delle Cinque Piaghe scrive che, smarrita la ricchezza dei maestri antichi, i teologi del suo tempo hanno prodotto testi i quali, citato, ci infondono tanta presunzione di saperezzo pe' nostri maggiori, questi libri che nei secoli a venire saranno, a mio credere, giudicati tutto ciò che di più meschino e di più svenevole fu scritto nei 18 secoli che conta la Chiesa. Così Rosmini. Risulta legittimo, pertanto, sulla base di questa analogia che ho tracciato, il tentativo di una riflessione sulle questioni emergenti nell'attuale dibattito teologico-morale, assumendo il pensiero di Rosmini come orizzonte interpretativo della crisi e come riserva indicativa per individuare alcuni percorsi. Dunque non Rosmini precursore, Rosmini serbatoio di ogni soluzione, ma un Rosmini compagno della nostra volontà di interpretare la crisi. Rosmini ermeneuta. È quanto ci proponiamo di fare, orientando la nostra attenzione sui due tronchi distinti ma interagenti del discorso etico, la questione fondativa dell'etica e la questione normativa nell'etica. Nomos e telos. I due termini figuranti nel titolo di questa relazione ne scandiscono anche l'andamento e le parti. Nascono così due domande a cui le due parti della relazione tendono rispettivamente di dare risposta. Quale nomos si addice ad un'etica teologicamente orientata? Ed inoltre, quale telos può innervare la ricerca di giudizi normativi in etica teologica? Quale nomos? Il dibattito sulla fondazione della morale deve rifarsi inevitabilmente alla questione della autonomia nella morale. Autonomia è un concetto che troviamo nella tradizione etica dell'Occidente, sebbene con sfumature diverse, già a partire dagli albori della civiltà greca. Lì autonomia, il concetto era impiegato in un orizzonte di comprensione di carattere politico e veniva a precisare lo stato di autonomia delle città-stato rispetto ad Atene. Più tardi, a conclusione della guerra dei Trent'anni e dopo la vicenda degli scontri delle confessioni religiose, autonomia assume un significato più prevalentemente giuridico e sta a dire la capacità dei soggetti di orientarsi liberamente, autonomamente, verso la scelta di fondo del loro status religioso. Soltanto con Kant, il concetto di autonomia sulla base di quella che egli stesso chiama la svolta antropologica assume una connotazione di carattere antropologicamente più chiaro e pertanto si ha un impiego etico del concetto di autonomia. L'accento posto da Kant nella fondazione della metafisica dei costumi trova poi un riscontro nello scritto Che cosa è l'illuminismo, dove autonomia risulta da Kant così pensata e definita: potere della volontà umana razionale di fare legge per se stesso. Autonomia della volontà come supremo principio della moralità. Autonomia è, ancora Kant, inclinazione e vocazione e riguarda la libertà umana nel pensiero e nell'azione. Mi sembra che la prospettiva kantiana venga però travisata quando l'interpretazione del principio supremo della morale, cioè l'autonomia, viene asservita a scopi estranei alla sua ispirazione. Per dare forma alle istituzioni politiche emergenti dal liberalesimo e per formare i cittadini ideali dello Stato liberale, si è fatto leva sulla categoria kantiana di autonomia facendola diventare l'equivalente di autarchia, esaltazione cioè dell'individuo. Tale interpretazione è messa in rilievo da McIntyre quando egli dice: con il concetto di autonomia, per Kant, nasce nella tradizione moderna anche il concetto di individuo. Ma qui si pone una questione che in buona parte tocca anche il nostro tema, e cioè di quanto sia genuinamente kantiana questa interpretazione individualistica, autarchistica del concetto di autonomia. Chi vi propende non si limita forse alla lettura del concetto di autonomia di Kant in riferimento alla sola opera della Grundlegung, della fondazione della metafisica dei costumi, che peraltro rispetto al tema dell'autonomia non offre una trattazione sistematica, riducendo così i soggetti morali autonomi ad uno stuolo di estranei che si fronteggiano, e che pertanto sono incapaci di dimorare in un mondo morale comune. Mi pare che si possano cogliere alcuni impulsi per una rilettura del concetto di autonomia kantiana che meglio ci introduce alla questione della comprensione all'interno del dibattito etico-teologico oggi. Questi tre impulsi li faccio ruotare intorno a tre categorie del pensiero kantiano. La dottrina kantiana del regno dei fini, ne ha parlato tanto a fondo Langtalo nella sua analisi del Reich der Zwecke, non vuole forse essere intesa come un contributo a creare proprio un universo morale solidale? Ancora, la categoria della speranza, che per Kant risolve il problema del terzo quesito nella introduzione alla critica della ragion pura: cosa posso conoscere, cosa posso fare, cosa posso sperare. La categoria della speranza non intende forse porsi come mediazione tra l'uso teorico e l'uso pratico della ragione, tra mondo della natura e mondo della libertà? L'ampliamento in senso meta-individuale dell'agire non deve essere preso come luogo ermeneutico dell'intero complesso dell'idea di autonomia? Ed infine, la connessione tematizzata soprattutto nella critica della ragion pratica tra il concetto di autonomia e quello di sommo bene non deve servire forse a correggere le ottiche riduttive dell'idea di autonomia in senso privatistico e in senso autarchistico? Il risultato della categoria di sommo bene, speranza e regno dei fini ci porterebbe probabilmente più vicini a quel concetto di comunità etica entro cui il singolo trova la sua abitazione. Teologicamente, il concetto di autonomia kantiana è stato recepito, registrato ed ha provocato sortite diverse, tre possibili modalità di recezioni teologiche di questo concetto di autonomia kantiana e in generale del complesso del tema nella tradizione post-illuministica. Una prima recezione, che si potrebbe esprimere nella metafora del rifiuto. Questo rifiuto è espressione di un'ottica di tipo apologetico, che vede nel concetto di autonomia kantiana, illuministica in generale, il sinonimo di un movimento antireligioso. Dio scompare laddove all'uomo viene riconosciuto spazio di autogestione. Ma non tutti si sono accontentati della posizione del rifiuto. Un'altra posizione è quella dell'accettazione piena dell'idea moderna di autonomia che viene praticata anche in contesto di etica cristiana. Cito esemplificativamente l'etica di Paul Tillich, che vede nell'assunzione, nell'accettazione piena del concetto di autonomia, una specie di correttivo all'ingerenza autoritaria di molti sistemi morali, una specie di riduzione dello spazio prescrittivo dei sistemi morali, con il rischio, da Paul Tillich sicuramente non evitato, da qualcun altro già di più, con il rischio di perdita della identità dell'etica cristiana stessa. Ecco perché, tra la posizione del rifiuto per via apologetica e la posizione dell'accettazione piena, mi sembra che vada presa seriamente in considerazione la posizione di una integrazione critica all'interno del discorso etico-teologico della categoria di autonomia. L'idea di autonomia viene assunta ed integrata nel quadro della teologia morale non per contrapporre l'uomo come soggetto etico a Dio come fonte di moralità, ma per recuperare il valore originario della ragione umana come luogo di percezione e di obbligazione rispetto all'istanza etica. È il modello che dalla fine degli anni Sessanta si è sviluppato all'interno della riflessione teologico-morale, inizialmente di area tedesca, ma poi esteso anche a altri paesi dell'Europa, il modello che ha come precursore corifeo Alfons Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube. Questa posizione viene particolarmente discussa nel contesto dell'altra questione dibattuta proprio negli anni immediatamente seguenti il concilio, e cioè la questione dello specifico, del proprium della morale cristiana. Sebbene l'occasione prossima alla focalizzazione del dibattito sull'autonomia sia stata data dalla discussione intorno a un problema di etica normativa, cioè l'enciclica Umane Vitae 1968, dunque da una questione di etica applicata e in un contesto chiaramente normativo, l'interesse si è chiaramente spostato vistosamente sul fronte della questione fondativa e ha inteso mettere in analisi lo strutturarsi stesso del soggetto etico anche in contesto teologico. Rileggendo storicamente la tradizione teologico-morale, Alfons Auer ripercorre alcune delle sue stazioni, le più salienti, in cui egli riscontra la assunzione dell'ethos mondano, dunque il concetto praticato di autonomia, assunzione dell'ethos mondano nelle diverse sue formulazioni all'interno della questione etico-teologica, partendo da testi biblici, Romani 2,14, Filippesi 4,18, passando attraverso le stazioni del discorso patristico, della teologia della scolastica, la visione degli umanisti del XV secolo, c'è una specie di costanza, egli nota, di assunzione dell'ethos mondano. Solo al tempo dell'illuminismo si assiste a una frattura, qualificando come antireligiosa la concezione propria di questo movimento di pensiero, espressione chiara è appunto Kant, ma come è stato letto nella ottica riduttiva di cui ho parlato, non se ne coglie più il potenziale di sfida e di occasione ad uscire definitivamente dalle angustie del legalismo della casistica decadente. Ecco perché Auer può definire questa posizione di rifiuto della teologia morale, della teologia in genere rispetto alla tradizione illuministica e post, come un indizio, citato, della miopia della teologia del nostro tempo. Certo, ci sono eccezioni. Sebastian Mutschel già 1749-1800 aveva posto le premesse per una assunzione anche in contesto teologico della visione kantiana. Più tardi, a Tubinga, Lindzmann tenterà la stessa strada, ma in generale la teologia morale cattolica si è tenuta lontana da questa che ha ritenuto una fonte di contaminazione del discorso etico. Per la posizione dell'etica autonoma in un contesto di fede, così come dice Auer, si pongono due ordini di riflessioni: il concetto stesso di obbligazione morale, e cioè come l'uomo diventa soggetto, quale istanza lo interpella. L'espressione interpella si riferisce immediatamente alla struttura dialogica di questo fondarsi e vedersi fondato come soggetto morale. Alfons Auer parla di Beanspruchung. Chi può beanspruchen? Chi può mettere l'uomo di fronte alla istanza, all'esigenza morale? In un modo così radicale da chiamarlo, da indurlo a dare una risposta? In altre parole, quale legge fa dell'uomo un soggetto morale? Quale nomos lo costituisce soggetto morale? Oppure quale legge lo riduce ad esecutore di prescrizioni etiche? Dunque, il primo piano della riflessione su cui si muove Auer e l'etica autonoma in contesto di fede è quella della ridefinizione del concetto di legge nel suo carattere di fonte di una Beanspruchung. L'altro ordine di idee: che ruolo va riconosciuto alla fede religiosa, alla fede cristiana nella questione, nelle questioni etiche? Come va implicata la presenza di Dio, il suo nome, nelle questioni di moralità? Quale teologicità può ancora competere a un'etica autonoma? Per conseguenza, quanto esclusiva e rivolta solo per i credenti può essere la morale cristiana, la morale teologica? E questione ad esso connessa: quale competenza va assegnata al Magistero della Chiesa come interprete e come depositario della fede? Su questi due piani, quale fonte di obbligazione e quale ruolo compete a Dio, mi pare che si possano esprimere due pensieri che io formulo ricavandoli dalla ricostruzione storica che del dibattito dell'autonomia fa Henry Gillen, Wie Christen ethisch handeln und denken. Io propongo due tesi brevemente formulate, e cioè: la prima, Dio non può fungere da istanza autonoma per fondare l'ordine morale. Dio non può fungere da istanza autonoma per fondare l'ordine morale. Egli è la fonte di un movimento di partecipazione dell'uomo al suo essere nella prerogativa di immagine. E il tema dell'immagine di Dio fa da cerniera, allora da cerniera ermeneutica, per la comprensione della soggettività etica e rende possibile un'affermazione chiara dell'indole autonoma dell'uomo in ordine all'agire. Qui affiora, secondo me, tutta la densità di un luminoso testo di Tommaso d'Aquino che fa da sfondo alla tradizione di pensiero a cui appunto facevo riferimento e che si accorpa intorno alla posizione di Alfons Auer. Nel prologo della prima seconde, dunque nel testo di passaggio dalla prima parte alla seconda, Tommaso scrive: già che, come insegna il Damasceno, si dice che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, in quanto l'immagine sta ad indicare un essere dotato di intelligenza, di libero arbitrio e di autodominio, dopo aver parlato dell'esemplare, cioè di Dio, e di quanto procede dalla divina potenza, conforme al divino volere, rimane da trattare della sua immagine, cioè dell'uomo, in quanto anch'egli è principio delle proprie azioni in forza del libero arbitrio e del dominio sul proprio agire. L'uomo, in quanto anch'egli et ipse potestativum, ha la capacità di essere principio delle proprie azioni. Et ipse, annota dal Marzio Mongillo. Su esso gravita la dialettica del prologo. Costituisce l'articolazione che mette vigorosamente in rilievo la straordinaria pregnanza della concezione di Tommaso. Ha un'importanza notevole ai fini dell'approfondimento della concezione dell'uomo quale soggetto della riflessione morale. Dunque, Dio non può fungere da istanza eteronoma, perché altrimenti non avremmo il rapporto di una congiunzione et ipse. Una seconda tesi che ci aiuta a cavalcare ancora questo sentiero del pensiero dell'autonomia etica in contesto di fede è che la fede in Dio non elimina, ma suppone e potenzia il ruolo della ragione nella ricerca delle norme morali. Qui non si tratta di una verniciatura di carattere inglobante da parte della fede nei confronti della ragione. La fede non può essere intesa come un serbatoio di norme già definite, a cui la ragione deve piegarsi riconoscendole e dettando alla volontà la capacità di applicarla. La fede piuttosto tiene aperto all'infinito la domanda di senso del vivere e chiama a ridisegnare in modo sempre nuovo e critico l'orizzonte di autocomprensione dell'uomo. La fede gioca il suo ruolo determinante e sicuramente irrinunciabile, ma come riserva di verifica e indicatore del livello di realizzazione o di smarrimento della prerogativa di immagine di Dio da parte dell'uomo. Per questo, la posizione della morale autonoma nel contesto cristiano attribuisce alla fede, in definitiva, al carattere teologico dell'etica, un significato importante, ma anche estremamente delicato e fragile, dove è sempre in pericolo l'equilibrio tra fede e ragione. Proprio in relazione a questo secondo punto, e cioè il ruolo della fede, si sviluppa inizialmente in Germania nella metà degli anni 70, come reazione, per così dire, alla posizione di Alfons Auer, una diversa posizione che si conosce con il termine di Glaubensethik, di etica dettata dalla fede, che afferma in modo più chiaro l'importanza della fede anche in ordine a precetti e a dettati normativi. È la posizione che viene assunta in maniera iniziale e principale dal teologo moralista di Friburgo, Bernhard Stöckler. La nozione di legge morale, quale nomos, assume una sua importanza decisiva in questo dibattito della autonoma morale e della Glaubensethik. Ma non è solo in questa questione che la nozione di legge morale assume un significato. Mi pare di vedere piuttosto nella nozione di legge morale una specie di questio continua che sempre ha suscitato posizioni contrapposte. E proprio qui, in questa questio continua che è la legge morale, ricorro a questo ermeneuta di cui ho parlato prima, e cioè Rosmini. Nell'antropologia in servizio alla scienza morale leggiamo: il bene morale consiste nell'adesione della volontà alla legge, ossia nel volere il bene secondo l'ordine oggettivo degli esseri. All'incontro, il male morale consiste nella disarmonia fra la volontà e la legge, ossia nel non volere il bene secondo l'ordine oggettivo degli esseri da noi conosciuti. A prima vista, questo linguaggio risulta colorato di tinte oggettivistiche, e molti che vogliono fare di Rosmini il corifeo di un oggettivismo così inteso trovano evidentemente conferma. L'impresa morale dell'uomo non sarebbe altro che di tipo applicativo, un aderire o adeguarsi all'ordine oggettivo degli esseri in forza della legge che obbliga l'uomo. Ma mi pare di capire che le cose non stanno proprio così. Rosmini vuole chiaramente superare la trappola dell'oggettivismo, al tempo stesso non cadere nella maglia del soggettivismo. E nei principi della scienza morale egli chiude il primo capitolo tentando, come dice lui, una strada media, un terzo sistema tra autonomia e eteronomia, e cioè scrive, tra i sistemi che attribuiscono al soggetto ciò che è dell'oggetto, e qui pensa a Kant, e qui a me pare andrebbe riletta la disputa Kant-Rosmini sulla base di quelle interpretazioni riduttive della visione kantiana di cui ho parlato sopra. Dunque, sistemi che attribuiscono al soggetto ciò che è dell'oggetto e sistemi che attribuiscono all'oggetto, cioè alla legge morale, ciò che è dell'uomo soggetto. E qui egli pensa a Locke e scrive: infra questi due sistemi, adunque, che non possono in alcun modo soddisfare per mancanza di compita osservazione, un terzo sistema ha luogo, fondato in un'osservazione intera e imparziale, il quale né si restringe arbitrariamente al soggetto, cercando dedurre tutto da questo unico principio, né si chiude sistematicamente e s'occupa tanto nella eccellenza della legge, che dimentichi le proprietà dello spirito che la percepisce, ma diligentemente considera il soggetto e l'oggetto e quel modo mirabile che fa di questi due una cosa sola, senza però confonderli insieme. Così Rosmini. Questo testo, mi sembra, dà il tono per la considerazione della categoria di legge morale. È un testo che fornisce ottiche formali, prima di tutto, che dunque non può occupare un posto di eccellenza, così da occultare la dignità del soggetto. La legge morale non è un'istanza esterna all'uomo, obbligante in forza della materiale adesione di questi, dell'uomo, all'ordine degli esseri. Essa, la legge morale, ha una valenza antropologica perché riflette il nesso tra il soggetto e l'oggetto. Perciò Rosmini può dire in apertura ai principi della scienza morale, e qui della scienza morale, qui cito: la legge morale non è che una nozione della mente. La legge morale non è che una nozione della mente con l'uso della quale si fa giudizio della moralità delle azioni umane, e secondo la quale però si deve operare. Dunque, una nozione della mente con cui si fa giudizio. Se la seconda parte della definizione, secondo la quale si deve operare, mette in risalto il risvolto operativo e pratico della legge, la prima evidenzia principalmente il carattere tensionale del soggetto nella sua apertura verso l'essere, verso l'alterità, verso il tutto, verso Dio. Legge morale è dunque struttura di partecipazione dell'uomo nell'economia dell'essere e del bene. Essa non si frantuma nei precetti materiali, ma ha come primo riferimento la dialettica tra l'agire e l'essere, tra il tempo e l'eternità, tra la particolarità e l'universalità. L'ispirazione qui è chiaramente tommasiana, anche se Rosmini qui non cita Tommaso, ma mi pare di poter leggere in questo orientamento ciò che Tommaso afferma in maniera ripetuta e chiara nell'Ex Tractatus, nel Trattato sulle leggi della Summa Teologica. Tommaso definisce la legge come ordinatio rationis. Rosmini parla di nozione della mente. Era ben evidente che un tale modo dinamico e aperto di concepire la legge morale, la prima legge morale è in definitiva l'idea dell'essere, gli dice, trovasse delle obiezioni. e negli opuscoli morali è contenuto lo scritto rosminiano che rega il titolo sulla definizione della legge morale, risposta al reverendo padre Giuseppe Luigi Dmowski della Compagnia di Gesù. Questo gesuita, teologo docente al Collegio Romano, aveva subito reagito alla definizione di Rosmini, facendogli osservare che a quella mancava la prerogativa prescrittiva, che è propria della legge, non nozione della mente. Obiezione dello stesso tenore, a mio avviso, di quello con la quale secoli prima, e cioè all'epoca della seconda scolastica, della scolastica spagnola, XVI secolo, Francesco Suarez solleva a Tommaso, contrapponendo così alla definizione di legge che Tommaso aveva dato, ordinatio rationis, una sua definizione, lex est preceptum commune, justum et stabile. Anche qui, il confratello gesuita di Dmowski, secoli prima, aveva fatto il suo plaidoyer per la sottolineatura del carattere prescrittivo della legge rispetto a carattere orientativo, ordinativo, che Rosmini aveva messo in risalto, ripeto, risentendo la ispirazione tommasiana. La legge morale, nozione della mente, cioè capacità di partecipazione all'ordine dell'essere, diventa il principio interiore e il luogo in cui l'uomo si riconosce soggetto morale, poiché il soggetto, egli dice, è un essere sensitivo in quanto contiene in sé un principio attivo supremo. Ora, questo principio attivo è la legge. Questo principio attivo supremo è Dio stesso, che non si contrappone all'uomo, ma lo assume a partecipare alla sua provvidenza e cura del bene umano, del bene dell'universo. E qui il carattere teologico, la teologicità dell'etica è trasparente e sta a dire esattamente questa modalità di rapporto tra esemplare ed esemplato, tra l'immagine che è l'uomo e Dio che è la fonte, tra Dio e la creatura. Il riconoscimento di Dio per l'uomo non pone termine, ma al contrario stabilisce le condizioni per l'origine della sua autonomia, della sua soggettività. E lo specifico cristiano della morale, cioè la teologicità dell'etica, non può essere altro che il potenziamento più radicale e il disvelamento più inverante di questo regime di autonomia in cui si colloca la moralità. Fu la cristiana dottrina, scrive Rosmini, che scoperse chiaramente agli uomini quest'atto intellettivo, nido della morale, l'atto della partecipazione all'ordine degli esseri, l'atto della comprensione, dell'attenzione verso l'apertura. E poi, evidentemente, in chiave teologica, questa sorta di apertura acquista una sua connotazione, un suo colore cristologico, quando Rosmini, appunto, nei principi della morale cristiana, scrive che in definitiva è il verbo di Dio questo principio supremo della morale. Se Rosmini si legge in un'ottica riduttiva, che fa di lui e della sua teologia un sistema chiuso, allora evidentemente qui ci troviamo al massimo grado di possibilità di scivolamento in una sorta di integrismo colorato di connotazione teologica. Il luogo invece dove si realizza la soggettività etica è la libertà dell'uomo, questa forma, dice Rosmini a conclusione dell'antropologia, nella quale sta il fastidio dell'umana natura. Dio, come origine e fonte di autonomia, non è il limite posto alla libertà dell'uomo, ma la sua ultima riserva, quando tutte le altre istanze abbandonano l'uomo a strutture di schiavitù, Dio si mantiene a lui fedele, giocando il ruolo dell'ultimo geloso custode della libertà dell'uomo. Egli è il nomos, che consente all'uomo di diventare soggetto della sua moralità, ma un soggetto in autonomia e libertà. Egli mantiene acceso nell'uomo la tensione verso il bene partecipato e solidale. Infatti, Rosmini, questo è il fine dell'uomo, l'altissimo fine della persona e conseguentemente della natura umana, e questa comunicazione, questa società mutua degli enti con l'ente, degli enti e tra sé, è il fine dell'universo. Quale nomos? Questo nomos. Ma quale telos? La seconda parte della nostra relazione. Quale telos? Qui tocchiamo un terreno minato, perché entriamo in un ambito che vuole rispondere a quesiti di etica normativa, ma proprio sul piano dell'etica normativa si gioca per la teologia morale, io direi in particolare per la teologia morale cattolica, si gioca una carta pericolosa. Il piano dell'etica normativa costituisce per essa una sfida difficile. Lo dimostra il fatto che tanta resistenza, tanto disagio ponga a chi fa etica teologica in casa cattolica di assumere sul serio e tematizzare in maniera esaustiva e corretta tutta la gamma dei livelli nel discorso etico portata avanti dalla corrente a noi contemporanea della cosiddetta etica del discorso, della discourse ethic. Recentemente un gruppo di giovani studiosi di etica teologica, coordinati da Walter Lesch e Alberto Bondolfi, hanno messo insieme dei saggi di estremo interesse in un volume che reca il titolo Theologische Ethik im Diskurs. La tesi, che si può desumere dalla constatazione di questa difficoltà, è che senza discorsività, e cioè senza attenzione all'indole argomentativa, l'etica teologica si condanna nuovamente a soffrire di anemia. Essa, pur facendo appello al nome di Dio, in realtà gli dà un posto sbagliato. Dovremmo qui, in maniera più approfondita, parlare del carattere argomentativo, della necessità di argomentare nella teologia, nella etica in generale, nella teologia morale in particolare. Poiché l'ho fatto in un saggio recente in una maniera più esaustiva e il tempo mi sta tradendo, vorrei accennare soltanto a quello che sinteticamente ci può essere utile per passare al contatto, a ricontattare il nostro ermeneuta. Voglio dire che la teologia morale, come la filosofia morale in generale, ha avuto dopo Cartesio una sorta di perdita del gusto di argomentare e si è piuttosto soffermata sulla volontà di dedurre, di dimostrare, partendo dai principi applicando i quali si giunge a dei risultati. Il tenore dimostrativo che consente di formulare le norme etiche prende il posto del movimento argomentativo e situa differentemente anche la connotazione, la concezione di verità morale. Evidentemente c'è stato un movimento molto lungo, propedeutico, di pensiero che ha cercato di ribaltare questo scenario, reimmettendo nel discorso sulla normatività etica maggiormente il gusto dell'argomentare. La riabilitazione della teologia, della filosofia pratica, di Rehabilitierung der praktischen Philosophie, è stato un contributo molto importante. Il trattato sull'argomentazione di Perelman, ma anche l'accentuazione sotto il profilo della filosofia del linguaggio portata da Tugendhat, e poi ultimamente la puntualizzazione di Appel e di Habermas, e cioè in generale della discourse ethic, ci hanno almeno costretto a prendere sul serio questa figura dell'argomentare. Noi conosciamo nella tradizione teologica della teologia morale, ma anche della filosofia in generale, due forme, due vie per pervenire al giudizio etico. E qui pongo la domanda: come queste due vie impiegano la figura dell'argomentare e per ciò che ci sta a cuore in questo momento, come queste due vie implicano il concetto di Dio? Quale teologicità tollerano queste due vie? Parlo della via di fondazione deontologica dei giudizi morali e della via di fondazione teleologica. La via deontologica si riferisce a ragionamenti il cui stile risponde alla domanda: leggendo la natura dell'atto che io devo compiere, ho anche una risposta rispetto alla moralità di questo atto stesso. Gli atti hanno in se stesso una scrittura, per così dire, di carattere normativo, per cui ponendo in essere determinati atti, io già so dalla loro connotazione se sono atti buoni o no. Le due figure su cui ruota l'argomentazione deontologica sono, da una parte, se io compio un atto che mi è consentito compiere o se quest'atto appartiene invece ad un altro. Poniamo il giudizio concreto sul suicidio, risponde a questo tipo di dinamica di carattere argomentativo: non posso togliermi la vita perché la vita non, perché la disponibilità sulla vita non compete a me ma compete a Dio. Mi manca allora in me soggetto una legittimazione, ex defectu iuris in agendo, manca al soggetto che agisce il diritto a fare una cosa. Oppure nell'altra figura di questo procedimento argomentativo si dice: questo atto è contro la natura e dunque è intrinsecamente cattivo. Il problema dell'intrinsece malum è appunto un riflesso di questa modalità di concepire e strutturare il giudizio etico. La via teleologica invece si muove dalla considerazione che la tensione verso cui è protetto l'uomo, la tensione verso cui, il fine verso cui l'uomo deve camminare, è gestito da una tensione che commisura le esigenze legate al fine con le possibilità legate ai mezzi. E vede che il precetto fondamentale, il principio fondamentale dell'amore, il riconoscimento fondamentale dell'istanza che ci fonda come soggetti etici, è sempre vivibile soltanto in realizzazioni parziali. Ecco perché l'avventura etica si consuma all'interno di questa logica di scelte preferenziali. Una teleologia, una teoria della fondazione teleologica dei giudizi morali che si sostanzia dunque di scelte di proporzionalità, di proporzionalismo. Ma queste scelte di proporzionalità hanno una loro legittimazione, in altre parole l'opinione che ci aiuta a riconoscere nel movimento teleologico un'opzione da fare. Questo non trova soltanto sul piano formale, e cioè nel carattere eminentemente argomentativo del suo discorrere, una sua legittimazione. Adesso si aggiunge anche una considerazione di tipo materiale, situata nel contesto del discorso antropologico, cioè l'uomo vive calato nella sua storicità e parzializza l'istanza del bene sempre in istanze di beni, al plurale, e in definitiva la legittimazione per questa opzione verso un modello di carattere teleologico la si trova anche in una scelta di carattere di tipo teologico. Dio, sulla bocca di chi fa discorso etico servendosi della strada teleologica, Dio sulla bocca di costui viene nominato con massimo rispetto, ma anche nella attribuzione a lui del ruolo reale che gli compete. Il carattere assoluto con cui si presenta l'istanza etica, quale interpellanza del sommo bene, non contraddice il tenore non assoluto delle realizzazioni concrete di questo bene in contesto di contingenza e storicità. Questi, cioè l'uomo, è sempre collocato di fronte ad una pluralità di beni e di valori da realizzare, e la condizione umana che una conditio in itinere dispiega il destino etico della persona e della comunità in un regime di permanente ricerca dei beni da preferire. Cosa ci dice il nostro Ermeneuta? Quale lettura dà Rosmini del problema normativo? Vorrei essere abile a non fargli dire più di quanto non solo egli abbia detto, ma probabilmente di quanto possa aver pensato, ponendo a lui una questione che invece probabilmente deduce dall'adeguarsi delle azioni ad un ordine naturale statico già dato, retrospettivo, ma trova la sua densità e la sua dignità per il fatto di mettere il soggetto agente nella tensione in avanti, una tensione verso la felicità. E nell'Antropologia in servizio alla scienza morale gli scrive: vi ha una legge eterna di giustizia che splende a tutte le intelligenze, la quale legge decreta che una volontà moralmente buona sia felice. Qui troviamo la proclamazione chiara di un nesso, che è inscindibile, tra bene morale e bene eudemonologico, tra virtù e felicità. Anzi, la moralità stessa risulta dall'esercizio sintetico e dialettico della ricerca dei due tipi di bene, nella concretezza della situazione in cui si è chiamati ad agire. La scelta, la decisione per questa o per quell'azione, dice Rosmini, è sempre un giudizio pratico, il quale si distingue dal teoretico a cagione della forza deliberativa e operativa che ha congiunto. Non è tuttavia dal teoretico distinto, anzi il teoretico ha con lui una relazione simigliante a quella che la pianta di una casa ha con la casa stessa. Dunque, il giudizio pratico, egli scrive, è sempre un sillogismo, un argomento, la maggiore del quale viene data dalla astrazione. In altri termini, il modo per pervenire al giudizio non può essere quello del riconoscimento di un ordine predato. Riconoscimento. Per questo Rosmini stigmatizza quei sistemi morali, è il quarto capitolo della storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale, stigmatizza quei sistemi morali, citato, che confondono l'ordine morale con l'ordine della natura, o con quello dell'animalità, o con quello della razionalità. Mi piacerebbe che qualche assertore in campo specifico di etica sessuale, di giudizi fondati in maniera deontologica, ripensasse a questa espressione di Rosmini. Confondono l'ordine morale con l'ordine della natura o con quello dell'animalità. Dunque, lontano da ogni irrigidimento di tipo deontologico, Rosmini mostra con chiarezza che il modo per pervenire a un giudizio pratico si sostanzia di un movimento conoscitivo, non riconoscitivo, di adeguazione, ma di prospettazione, che realmente apporta una crescita di valutazione che poi ha una sua valenza operativa, forza deliberativa. Il momento conoscitivo, noi potremmo dire l'indole argomentativa, è assunto per Rosmini dalla ragione pratica, sintesi per lui della ragione morale e della ragione eudemonologica, delle quali egli parla nel principio della scienza morale al capitolo quarto. La ragione pratica, adunque, siede, leggo Rosmini, quasi arbitra tra l'utilità e l'onestà delle azioni. Bene eudemonologico, utilità, felicità, bene morale, l'onestà. La ragione pratica, la moralità, è al centro di questa duplice considerazione e giudica, Rosmini, e giudica ciò che all'istante sia meglio a noi di fare. il qual giudizio sopra ciò che a noi convenga meglio di fare al presente è desunto tanto da ragioni morali quanto da ragioni eudaimoniologiche, oppure si fonda ora più su quelle, ora più sulle prime, ora più sulle seconde. Il giudizio morale non è alieno da una connotazione situazionale, che non è frutto di cedimento, debolezza, frammentarietà, ma ricalca l'indole storica in cui è calata la persona e il suo agire. Il bene sommo, i beni che lo traducono. L'attenzione verso la felicità trova la sua realizzazione possibile nella sapiente ricerca del modo storico, circostanziale, situativo, contingente di tradurre l'istanza morale che è sì assoluta nel suo fondamento, ma che si realizza nella parzialità delle azioni che invece non possono che essere relative. Il soggetto prudente e saggio deve saper inglobare nel suo giudizio la valutazione ponderata di tutti gli elementi che entrano in gioco e definiscono il quadro dell'azione, conferendole una specifica connotazione etica. Finalmente, leggiamo nell'Antropologia Servizio e Scienza Morale, il giudizio pratico, onde si preferisce la strada della giustizia a quella dell'ingiustizia, viene rafforzato dal riflettere a tutte le sequele della virtù e del vizio. Problema delle conseguenze, un problema tipico dell'angolazione teleologica della fondazione dei giudizi morali. Si entra così, con l'attenzione alle conseguenze, mette in atto quell'accentuazione sulla saggezza che ci consente di non emettere giudizi morali principialistici, ma capaci di rispettare la complessità dell'agire. La sapiente valutazione delle circostanze, delle coordinate storiche, delle connotazioni situazionali dell'agire, non ha nulla a che vedere con il calcolo opportunistico della utilità occasionale. Il confronto con la visione di Adam Smith occupa in Rosmini, nei principi della scienza morale, diverse pagine. Nel riassumere le linee fondamentali del principio supremo della morale, proposto nella storia comparativa e critica dei sistemi, Rosmini ci fornisce un indizio sul livello teologico sotteso al problema della individuazione dei principi in etica normativa. Egli scrive: poniamo ora il sistema della morale cristiana a fronte di sistemi siffatti, e cioè quelli precedentemente criticati, tra l'altro quello kantiano, e veggiamo come questa morale del cristianesimo risponda meglio al problema di conciliare la felicità insieme alla virtù. Dunque, una terza via per uscire dalla contrapposizione, ma una terza via che ha la sua logica all'interno di un discorso di riconsiderazione del nesso tra felicità e virtù. Una terza via che a Dio non sottrae lo spazio, ma gliene offre di più. Gli offre quello plausibile. Come somma felicità dell'uomo e come istanza fondale che lo costituisce in quanto soggetto, Dio entra nella discorsività etica anche sul piano normativo, anche sul piano normativo. Non per sostituirsi alla fatica argomentativa della ricerca valutativa del bene in situazione, ma per rafforzare nell'uomo l'anelito verso livelli sempre più ampi di felicità possibile per tutti. Spostando verso le frontiere dell'Eterno, la realizzazione piena della felicità duratura, solo di là saremo, Dio insegna all'uomo di saper cercare quella felicità possibile, parziale, provvisoria, insita nelle scelte delle singole azioni morali che facciano raggiungere a tutti il grado possibile di bene. Egli diventa così Dio l'ultima sentinella che veglia sulla nostra tentazione di attribuire connotazione ultimativa, assoluta, irreformabile ai nostri giudizi normativi, e tiene desta in noi pellegrini sul cammino dell'agire la capacità di verificare la modalità dei nostri argomenti e l'intelligenza per comprendere e interpretare la storia. Il nome di Dio, in etica, e anche in etica argomentale, in etica normativa, il nome di Dio è e rimane, per chi non vuole nominarlo invano e per chi non ne vuole oltraggiare la santità, il nome di un itinerario. E vengo alla mia breve conclusione. Nella nota al 689 del Trattato sulla coscienza morale, Rosmini traccia uno schizzo storico sul problema del probabilismo e, pur mettendo in risalto alcune perplessità di natura teorica e di indole pratica, ne riconosce un pregio sostanziale che egli vede presente soprattutto nella visione etica, per così dire, di Alfonso Maria de Liguori. Probabilmente la scetticità, il dubbio di Rosmini nei confronti delle tesi probabiliste deve essere riletto a partire dalla condizione degradata del sistema probabilista al suo tempo, che a Pascal darà l'occasione per un rifiuto radicale e sprezzante e una sortita nel più chiuso dei rigorismi. Ma Rosmini scrive, parlando di Alfonso de Liguori: «Qual meraviglia! Se finalmente vedemmo, nei tempi nostri, un vescovo santissimo servirsi non poco dei lavori e delle meditazioni dei probabilisti. Ma servirsi perché? Servirsi a rendere la morale benigna quanto la benignità del divin legislatore». Signore e signori, il carattere di benignità della morale indica l'estrema e definitiva saggezza di un sistema etico la cui fondamentale intenzione è la promozione del bene umano, non rigidità di costrutti giuridici e neppure frammentarietà di visioni nichiliste, non un uomo catturato nella morsa di giudizi inflessibili e neppure un fantoma reso evanescente nel rotolare di vicende senza senso, ma l'uomo, questo soggetto che costruisce nella storia il suo destino etico, questo uomo sta a cuore ad una teoria morale che non perde il suo carattere di benignità. I sistemi rigoristi di ogni tempo sono la luce che fa mettere in risalto l'orizzonte pessimistico in cui molto spesso cadono le dottrine antropologiche e in definitiva degradano anche quelle teologiche. E poiché l'ultima fonte della benignità, Rosmini lo ha detto, è Dio stesso, egli entra nel discorso morale a pieno titolo, e l'etica può essere teologica, senza per questo perdere il suo carattere di scienza pratica. La condizione però è che il Dio implicato in un'etica teologica, a questo Dio non venga assegnato un posto e una funzione che non si addicono alla sua alterità e alla sua trascendenza. Quale nomos? Quale telos? Ci siamo andati chiedendo. Nomos d'amore che fonde la libertà, telos di felicità che ci rende vigili sui cammini da inventare per poterla realizzare nella storia. Vi ringrazio. Thank you.